Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il mio problema è che mi ingarello sempre, in qualsiasi situazione. Qualsiasi gara è buona. Se poi ho indosso un casco e sono seduto su una moto, è finita. L'altro problema è che ho già 50 anni. Mi chiamo Massimo Neriotti, abito a Torino, ho 50 anni e faccio il dentista per i cavalli. La passata stagione di Voi siete qui aveva avuto una sorta di picco, credo quantomeno nelle mail ricevute, nei messaggi su Facebook, nel ritorno, diciamo, d'ascolto e di apprezzamento durante una puntata che raccontava di un episodio avvenuto al protagonista e all'autore della storia, avvenuto durante il liceo, durante, o comunque durante le scuole superiori, in una scuola fuori Torino. Raccontava di questo episodio che più o meno non in quella maniera, però era successo più o meno a tutti, quello di avere un compagno più meno sfortunato, più o meno intelligente, più o meno ripetente, al quale lui faceva uno scherzo che riusciva male. Quella puntata tutti la ricordano con il nome di questo compagno più sfortunato, che era Scagnolari. L'autore di questa storia invece si chiama Massimo Neriotti, come lui si firma Massimo Polpo Neriotti, e cominciamo con lui, inauguriamo ufficialmente in questa seconda stagione la possibilità di rimandare storie anche per quelli che le hanno già inviate l'anno scorso. Voi siete qui, @radio24.it. Continuiamo a chiedervi di mandare un episodio della vostra vita, una piccola storia che racconti qualcosa di voi, di chi siete, di come siete e magari di perché siete diventati così. Una pagina, non di più, se è possibile, ripeto, se è possibile, a voi siete qui, @radio24.it. La storia che ci ha mandato Massimo, lo dice proprio l'intro della puntata, ha a che fare con quello che lui chiama ingarellarsi, che è un termine che noi abbiamo fatto fatica a trovare sul dizionario, vero? Perché l'abbiamo trovato da qualche parte in rete, ok, l'abbiamo trovato in giro, però è probabilmente un neologismo, cioè probabilmente è un neologismo, non so poi se la definizione di neologismi nasce quando entrano ufficialmente in un vocabolario, ma vabbè, questo è un altro paio di maniche. Ingarellarsi, poi lo spiegherà meglio Massimo, ha a che fare con avere un forte senso di competizione, un forte spirito competitivo in qualsiasi ramo del vivere umano, e allo stesso modo come lui ce ne sono diversi. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati sul profilo Facebook. Daniele: io spesso mi ingarellavo ai semafori con il mio cinquantino quattro tempi, la gara era con tutti, anche con le Ducati. Questo vuol dire proprio che non avere rispetto per nessuno. L'ebbrezza durava sì e no un secondo e poi ero già spacciato, ma nei secondi prima di partire, sgasando al semaforo, mi sentivo un Valentino Rossi prestato ai cinquantini. 349-238-6666, se siete dei tipi che hanno questo spirito competitivo elevato, vorrei soprattutto sapere a cosa lo applicate. C'è gente che gareggia, e Tiziano Bonini è uno di questi, c'è gente che gareggia anche su chi prende prima l'autobus, o insomma trasforma tutto in una gara. Camillo: mi alleno a calcetto e magari l'allenamento diventa una sfida a chi mette la palla sotto l'incrocio da centrocampo. Biliardino, Xbox, anche sul cucinare. Se vado in campagna guardo sempre gli altri se raccolgono più cose di me. Il senso di sfida, di competizione l'hai dentro e io odio perdere. Non sopporto la sconfitta e voglio giocare continuamente finché non vinco. Guarda, io conosco una categoria, Camillo, che gioca finché non vince e appena vince... ragazzi, io vado, a posto così. 349-238-6666. Poi, a questo proposito, visto che si parla di ingarellarsi, di sfide e in qualche modo di avere voglia di vincere, abbiamo dato un'occhiata al mondo del Guinness dei primati. Ecco, senza diventare un programma da prima serata di Mediaset, è veramente un mondo assurdo. Vi dico solo che magari dopo leggiamo com'è nata la storia del Guinness dei primati, che come tutte le grandi storie nascono un po' per caso, un po' senza un vero senso. Ma sul sito del Guinness dei primati l'ultimo record è di un tizio che tra l'altro in diretta radiofonica in un programma di una radio irlandese, perché lui è irlandese, che si chiama The Ray Darcy Show, ha fatto questo record con tanto di notaio davanti. Si è infilato, lui ha 25 anni, si è infilato 3107 stecchini stuzzicadenti nella barba. C'è un video in cui lui in 6 minuti, tagliato perché ci ha messo credo un'ora e mezza, a uno si è infilato degli stuzzicadenti nella barba. Ecco, il tono dei Guinness dei primati più o meno è questo.

posto, allora parli la stessa lingua. Se non sei cavallo, non c'è verso. Ok, è la logica di quello che fa il programma per cani su quell'americano che dice devi essere il capobranco, sì, più o meno. Sì, infatti è la stessa cosa. Va bene. Mi fa più o meno la stessa cosa. Massimo, senti, ti ringrazio moltissimo ancora per la storia. Sono arrivati altri messaggi di complimenti di gente che ride. Uno ha scritto sul primo clac, ho iniziato a ridere. Ciao Massimo, grazie ancora. Ciao, grazie, in bocca al lupo. E Tina scrive, evviva le ciampornie, sono comunque toste. La foto che ci ha mandato Massimo Nerriotti è molto simile o è esattamente la stessa dell'anno scorso, in cui lui, credo soprattutto per non farsi riconoscere, indossa una parrucca e degli occhiali che sembrano delle lenti di bottiglia rotondi, un po' alla Woody Allen, ma spessissimi, che gli deformano di fatto gli occhi e li rendono minuscoli. Ha la barba, ha la faccia corrucciata qui, ma in realtà, avendolo visto un paio di volte, ha la faccia molto molto simpatica. Ingarellarsi. Lo stato di ingarellamento consiste in una condizione di eccessiva esaltazione, eccitazione del motociclista, solitamente in pista, che lo spinge a compiere le nefandezze più inenarrabili col proprio mezzo. Per fortuna tale stato emotivo non dura a lungo. Ingarellato, motociclista affetto da ingarellamento. Esiste veramente? Ma cosa vuol dire ingarellarsi? L'hai appena detto, Alessandra. L'hai appena spiegato cosa vuol dire. E comunque io credo che abbia ragione l'ascoltatore che scrive che probabilmente arriva da Garelli, dal motorino e dalle gare con i Garelli. Non ricordo gente che facesse gare con i Garelli. Forse in montagna qualcuno col Garelli faceva. I Garelli aveva le marce, tra l'altro, vero? Alcuni sì, altri. Beh, però, cioè, se prendevi una roba senza le marce, prendevi il ciao. Se no, prendevi i Garelli. Cioè. Però, insomma, il Garelli ce l'ho in mente in mano. E so che esiste ancora la Garelli, fa degli scooter. Vabbè, che insomma, non sono all'altezza. 349-238-6666. Quando si sente uno che parla piemontese si riaccendono degli strani sapori. C'è uno che scrive viva i Savoia per aver sentito parlare Massimo Nerriotti. E ringrazio anche chiunque abbia scritto che non si è firmato, ricordandomi che come si era presentato Massimo Nerriotti nei video che avevamo chiesto per i live dello scorso anno, ed era nella presentazione lui concludeva con questa frase: vestito piaccio, nudo convinco. Questo era il modo in cui Massimo Nerriotti si era presentato al pubblico. E poi qualcuno mi ricorda che le ciampornie a Brescia si definiscono tardone, a Firenze invece si definiscono rifricolone. E poi, eccolo qua, Mauro da Varese mi dice: Massimo ha dipinto perfettamente il sentimento di ingarellamento dei ciclisti. Nonostante tutto, io a 42 anni, domenica ho messo dietro tutti in cima al Sacro Monte di Varese. Mi brucia ancora oggi respirare, che pirla. Mauro di Varese, ha scritto lui, ha scritto tutto lui. Visto che si parla di ingarellamento, di gare, abbiamo cercato nel terribile mondo appunto dei record, di chi quindi si ingarella per vincere un record, che poi è soprattutto il mondo dei Guinness dei primati. La storia è interessante. Prima di leggervela però vorrei leggervi un paio di Guinness che secondo me sono i migliori. E che, vabbè, la barba più lunga è un uomo norvegese nato nel 27, quando è morto aveva la barba lunga 5,30 m. Il singolo più venduto della storia è Candle in the Wind. La canzone con più cover in assoluto è Yesterday. Il concerto più corto è durato una nota, ma questa deve essere terribile: il più lungo attacco di singhiozzo è durato 68 anni. È un uomo che è morto nel 90 e quando aveva il singhiozzo singhiozzava dalle 70 alle 20 volte al minuto. Ma com'è nata la storia del Guinness dei primati? Con una storia, come sempre, semplice semplice. L'idea di collezionare ogni possibile tipo di primato venne a Sir Hugh Beaver, amministratore delegato delle birrerie Guinness di Dublino, il 4 maggio 1951. Lui, infatti, durante il ricevimento che seguì una battuta di caccia alla volpe, osservò come alcuni pivieri dorati fossero riusciti a fuggire grazie alla loro velocità. Nacque allora tra gli astanti una discussione tesa a definire se il piviere dorato fosse o meno l'uccello più veloce esistente in Europa. Sir Hugh pensò che queste discussioni dovessero essere molto frequenti ed ebbe l'idea di creare un libro dove chiunque potesse soddisfare la propria curiosità in ambito di record. Così si rivolse ai gemelli Ross e Norris, specialisti di record di atletica, e a loro affidò la stesura della prima edizione del Guinness dei primati. Il libro uscì il 27 di agosto del 1955. Il successo fu istantaneo. Ancora oggi, dopo la scomparsa dei due gemelli, il testo è il libro soggetto a copyright più venduto al mondo e il terzo in assoluto dopo la Bibbia e il Corano, avendo già venduto più di 100 milioni di copie in 100 paesi diversi. È stato tradotto in 37 lingue diverse. Nell'edizione del 2007 vengono battuti due tra i più famosi record del Guinness dei primati, e cioè l'uomo vivente più alto del mondo, 2,36 metri, è l'uomo più tatuato del mondo. Il primo però verrà annullato dopo il rifiuto dell'ucraino di sottoporsi ad altre misurazioni. Inoltre, dal 1955, quando fu pubblicata la prima edizione del libro, alcuni record non sono ancora cambiati. E fra questi, l'eclisse solare più lunga, il campione mondiale dei pesi massimi di pugilato in carica più a lungo, la diga di cemento più grande, il disco più venduto, il più grande edificio per uffici e lo stadio più grande del mondo. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. 349-238-6666. Io credo che abbia ragione. A proposito dell'etimologia del termine ingarellarsi, l'ascoltatore che dice: per me ingarellarsi deriva da gara. Una garella è una piccola gara e quando ci si trova dentro ci si ingarella. Chiudiamo qui e ringrazio anche quello che mi scrive il VIP3, il Garelli VIP3 in tre marce, il motorino più veloce cambiando il carburatore. Grazie a Fabio Cantadore, Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Massimo, oggi era la sua storia e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Stefano, ho 35 anni, sono di Bologna. La storia di domani è la mia e parla di un addio o di un arrivederci molto particolare. Questa è la mia storia e io sono qui.